Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, continuano ormai da molti anni, possiamo dire da sempre, le polemiche sul sistema industriale finanziario italiano, che però soprattutto dopo l'inizio della grande crisi finanziaria è stata sottoposta a molti scossoni. Ne sono prova il fatto che molti marchi italiani sono stati venduti, che si riduce sempre di più il perimetro della grande industria. Insomma, il nostro sistema imprenditoriale sta cambiando pelle anche sotto l'influsso della crisi del sistema creditizio, ma non è solo questione di assetti proprietari, è proprio il modello del capitalismo italiano che si sta trasformando e non sappiamo ancora in quale direzione. Il tema naturalmente è strategico perché ha a che fare col tipo di società, non solo il tipo di economia che stiamo più o meno consapevolmente costruendo. E questo tema è affrontato da uno storico dell'economia, Giuseppe Berta, nel libro Che fine ha fatto il capitalismo italiano? È pubblicato dal Mulino, 154 pagine, 14 euro. È un libro agile, alla portata di tutti, che rimette in discussione uno dei miti sui quali abbiamo ricostruito l'Italia, anzi costruito l'Italia, perché questo mito risale ai primi decenni dell'unità del nostro paese. Il mito che l'Italia appunto potesse raggiungere le grandi potenze attraverso un processo imitativo basato sulla realizzazione di un sistema che si fondava sulla presenza di grandi industrie. Berta ricorda le critiche che questa strategia aveva suscitato fin dall'inizio, soprattutto in Luigi Einaudi, il quale temeva che questo comportamento, come in effetti poi si realizzò, portasse a una forte e invasiva presenza dello Stato nell'economia e nelle scelte industriali, determinando una sorta di dirigismo che avrebbe soffocato le spinte vitali provenienti invece da una tradizione tutta italiana di attaccamento al lavoro, ma anche di labriosità ed insediamento locale. E in effetti da quel mito venne fuori un modello che soprattutto ha caratterizzato l'Italia nel secondo dopoguerra, ossia quello dell'economia mista, la cui crisi ha poi determinato il disorientamento che oggi l'economia e l'industria italiana devono affrontare, di cui parliamo adesso con l'autore. Buonasera a Giuseppe Berta. Buonasera. Giuseppe Berta, lei parte nel suo libro da un'affermazione perentoria: un capitalismo italiano nel senso in cui se ne poteva parlare negli anni 60 e 70 del secolo scorso, quando ancora ci si interrogava sulla sua specificità, non esiste più. E poi aggiunge: non c'è nemmeno un modello economico del nostro paese che aiuti, più ancora che a comprendere i problemi, a intravedere una prospettiva definita. Ecco, come mai solo in Italia? Perché in fondo la grande trasformazione tecnologica, la globalizzazione è avvenuta in tutto il mondo. Perché ne abbiamo sofferto noi più degli altri capitalismi? Ma ne abbiamo sofferto, io credo, perché il nostro modello ha ceduto insieme con l'avvento delle grandi trasformazioni del secolo scorso. Vale a dire che la Germania ha il modello di capitalismo renano di cui si è molto parlato, con modifiche, con aggiustamenti, ma nella sostanza senza particolari modificazioni di fondo. La Francia, pur in maniera più incerta, mantiene una politica economica e industriale centrata intorno al ruolo dei suoi campioni nazionali. E allora perché l'Italia ha ceduto di modello? Ah, dimenticavo, per non parlare del predominio del sistema finanziario inglese rispetto ad altri aspetti che caratterizza il capitalismo britannico. Perché l'Italia dunque ha rinunciato? Per un motivo molto semplice, perché la stagione del nostro sviluppo è avvenuto attraverso, si è svolta così, attraverso una serrata intesa tra il polo pubblico e il polo privato. Vale a dire che una funzione di traino nel nostro sviluppo l'ha certamente ricoperto l'intervento privato, che in certo senso ha aperto la strada anche ad alcuni settori. Pensiamo alla siderurgia, pensiamo l'intervento alla pubblico. L'intervento diretto dello Stato, che inizia con la fondazione della Terni negli anni 80 dell'Ottocento. E il polo privato, magari in dialettica col polo pubblico, ha tuttavia mantenuto un legame che si direbbe dialettico con la controparte. Ecco, questa spinta all'integrazione tra pubblico e privato è diventata fortissima con la crisi degli anni 30, che l'ha codificata in un certo senso, il modello Beneduce di cui si è lungo parlato, la nascita dell'IRI e poi nel secondo dopoguerra la nascita dell'ENI. E a proposito di IRI, lei ricorda uno storico per Luigi Ciocca, il quale ricordava appunto quello che lei già sottolineava, cioè il fatto che la grande impresa in Italia sia in notevole misura identificata con le maggiori società dell'IRI. Però quel modello ebbe anche dei limiti. Allora che bilancio anche fare? Dei limiti pesanti, limiti che dipesero dalla interferenza politica, che a un certo punto pose il sopravvento sui criteri di corretta conduzione aziendale. Questo ha determinato la caduta di quel modello di economia mista all'italiana, chiamiamola così. È un modello che è caduto non tanto per i suoi limiti economici, ma per il fatto che lo Stato e lo strapotere delle forze politiche, dei partiti, ha determinato uno stravolgimento delle funzioni economiche delle imprese pubbliche. E ciò appunto ha portato all'idea che fosse necessario smantellare radicalmente il polo pubblico e sviluppare invece una politica di privatizzazioni, la quale però non ha dato i frutti sperati. Pensiamo al campo delle telecomunicazioni, per averne un esempio eloquente. In altri termini, a me sembra che anche la mano privata, una volta che sia venuto meno l'azione dell'intervento pubblico, anche l'iniziativa privata si sia affievolita, almeno diciamo così, nei gradi più alti, nei piani più alti del sistema economico. Ecco perché dico che il nostro modello di capitalismo si è scomposto e si è decomposto e in certa misura alla fine destrutturato. E quali sono i limiti del sistema imprenditoriale privato in Italia? Il sistema imprenditoriale privato non si muove oggi ai piani più alti del capitalismo, si muove brillantemente ai piani intermedi, cioè il capitalismo delle medie imprese. Non solo in Italia si vede in questo tipo di capitalismo una forza capace di esprimere comportamenti, attitudini, inclinazioni, scelte imprenditoriali che hanno certamente un impatto positivo sulla vita economica, ma ecco, non riescono a salire di livello, non riescono a prendere il posto di quello che un tempo erano i nostri maggiori gruppi privati. Pensiamo, i nomi li abbiamo tutti in testa, no? Parlo di Montedison, parlo di Pirelli, parlo di Olivetti, ecco, i marchi storici dell'industrializzazione italiana che sono scomparsi, ma non è tanto il fatto che siano scomparsi a turbarci, è il fatto che non siano stati sostituiti da gruppi imprenditoriali di analoghe dimensioni e proporzioni. Ma non è proprio questo aspetto quello che caratterizza lo sviluppo del capitalismo italiano. Lei dedica molte pagine a ricordare quello che scrivevano prima Luigi Einaudi e poi Giorgio Foà, che descrivevano un modello completamente differente dell'industrializzazione italiana, basato sull'individualismo, sull'attaccamento anche alle vocazioni del territorio. Non sarà quella proprio la nostra forza? Del resto lei stesso scrive, dovrebbe essere ormai chiaro che l'Italia non è fatta a misura delle grandi imprese. Esattamente, anche a me, che pure sono stato un apologeta degli anni del miracolo, dello sviluppo delle grandi imprese italiane e di ciò che ha significato l'industrializzazione in grande scala e su base di massa, viene il dubbio che quella sia stata, come dire, una sorta di parentesi. Quegli anni del miracolo, gli anni 50, 60, i primi anni 70, sono stati una sorta di parentesi storica introdotta nella storia economica di un paese che invece evolve per via cumulativa, per via di un lento e metodico accumulo di risorse e di capacità che si specializzano, che si affinano e alla fine riescono a esprimere il meglio del dinamismo imprenditoriale. In questo senso, la lettura che faceva dell'Italia economica Luigi Einaudi nell'inizio del Novecento mi sembra in certa misura attuale e da riprendere con occhio naturalmente mutato per quanto riguarda gli aspetti di contesto, che sono radicalmente cambiati e si sono innovati. Ma quella lezione, che noi viviamo più di un capitalismo diffuso, più a contatto del mercato che non dei vertici dell'alta finanza, del giant companies come sono Google, Apple, Amazon, le altre grandi imprese tecnologiche che dominano la scena internazionale in questo momento. Lei non accenna, parlando del capitalismo italiano, del capitalismo produttivo, diciamo così, al ruolo delle banche. Ha citato adesso le finanze, però proprio nelle banche italiane si è manifestato questo intreccio tra politica, poteri locali, imprese. Esattamente, esattamente. Direi come che lo le giudica? Banche, le banche, allora, qui il nostro giudizio sulle banche è complesso, perché da un lato le grandi aggregazioni bancarie degli anni 90 non hanno generato i risultati sperati. Dall'altra va detto che anche le banche di territorio alla fine hanno dato degli inquietanti segnali di snaturamento, di subalternità a interessi locali. Ecco, questo è un punto debole e la nostra anche scarsa capacità di integrare funzioni finanziarie, bancarie e funzioni direttamente industriali e produttive. Questo è un limite del modello italiano di cui misuriamo la problematicità proprio in questo periodo. Lei conclude il suo libro scrivendo: il versante della politica economica richiede capacità di sintonia col sistema delle imprese, impone la selezione degli attori imprenditoriali da incentivare. Chi dovrebbe fare questa selezione? Lo Stato di nuovo? No, non può essere lo Stato da solo. Adesso si parla moltissimo, proprio in questi giorni, di Industria 4.0, del piano di governo e così via. Lì si dovrebbero individuare alcuni soggetti capaci di trainare il nostro sviluppo e capaci di mettere in circolo degli spunti, delle spinte alla crescita. Ecco, io credo che questo debba avvenire come quasi per selezione naturale. Vanno premiati i soggetti che sono più capaci di crescere e che sono più capaci di coinvolgere nella loro corsa altri soggetti d'impresa. E parliamo delle famose filiere, della capacità di alcune delle nostre imprese di essere punti di raccordo tra filiere produttive e tra basi produttive che riescono anche a determinare un impulso positivo presso molti territori. Io credo che questa sia la strada. Dunque, lo Stato deve dare degli incentivi, deve dare degli obiettivi, dei traguardi, ma deve lasciare alle forze economiche la capacità di autoselezionarsi e di liberare le energie di cui dispongono. Non ci può essere una guida dall'alto. In questo senso, un giusto mix tra incentivi e capacità degli attori di aggiudicarsi gli incentivi proprio in base alla funzione economica che svolgono. Grazie a Giuseppe Berta, autore di Che fine ha fatto il capitalismo italiano. Grazie, buonasera. Uno dei temi centrali nell'analisi di Berta è rappresentato dall'analisi della condizione del Mezzogiorno e dalle conseguenze che sul Mezzogiorno ha avuto la fine dell'intervento pubblico. Una storia del meridionalismo è quella presentata nel libro curato da Sabino Cassese, Lezioni sul meridionalismo, Nord e Sud nella storia d'Italia, pubblicata ancora dal Mulino, 384 pagine, 25 euro, che presenta vari saggi sui grandi meridionalisti dall'unità ad oggi. Significativa la premessa di Cassese al libro, che mette in guardia sull'errore di considerare oggi tutto il Mezzogiorno allo stesso modo. Oggi non si può più parlare di questione meridionale, conclude, ma di questioni meridionali. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di due romanzi di ispirazione e ambientazione simile. Siamo in entrambi a Roma, nella classe alto borghese fatta di professionisti, politici, signore mediamente annoiate. Nell'uno l'ambiente più orientato a destra, nell'altro più politicamente corretto. Nell'uno il capostipite rinuncia a essere nominato alla Corte Costituzionale, nel secondo il capostipite ne è stato componente. Insomma, giri molto simili in trame e analisi, ovviamente tutto affatto diverse. Anche le copertine dei due libri si assomigliano. La prima porta nel titolo il richiamo a un noto cocktail, nel secondo un cocktail illustra la copertina stessa. Allora partiamo dal primo, di Marco Ferrante, Gin Tonica Occhi Chiusi, pubblicato da Giunti, 348 pagine, 16 euro. Questo è più ironico, ma non per questo meno feroce, anzi forse in certi punti lui è addirittura più del secondo, è la saga di una famiglia romana dominati dal capostipite della moglie autoritaria, una moglie che ha una certa propensione a sfoggiare la servitù, come spiegano queste righe che adesso ascoltiamo. Ma certo, vedere tutto schierato il servizio le ha dato un compiacimento che non si può spiegare. Le persone che lavorano in casa sono dei dipendenti, è vero, ma sono dei dipendenti speciali. Sono la parte più privata del vivere. Sono una funzione del benessere e non solo. Sono gratificanti se sai trattare con loro. Ti fanno sentire più importante di qualunque altro dipendente faccia, soprattutto se ti vogliono bene. E comunque c'è anche la direzione contraria. Il piacere di non alzare un dito. Lei insegna loro tutto. E constatare al dunque l'applicazione cronometrica dei suoi insegnamenti è una soddisfazione esistenziale e, se si potesse dire senza apparire materialisti e superficiali, è l'esistenza stessa. Vassoi, apparecchiamenti, servizio in tavola, piatti ritirati da sinistra e serviti da destra, ricette ben riuscite, profumo delle lenzuola, il modo di fare la spesa senza spendere troppo, l'ordinatissimo cumulo delle note spesa con una tolleranza convenzionale dell'1% per la piccola cresta, quel margine di inaffidabilità che gli si deve riconoscere, giacché anche il furto è una tentazione irrefrenabile. La prima colazione a letto per i giorni di pigrizia, la prima colazione in terrazza in primavera e a settembre. Le diranno che la vita non è fatta solo di queste cose. Ok, d'accordo. Si limiterà a rispondere che ne è una parte fondante. La sensazione sospesa tra il bisogno e l'ostentazione della loro presenza le dà una scossa di vigore fisico e di potere sugli altri che nessun'altra cosa riesce a darle, né le sue rendite, né i suoi immobili, né i dipendenti di una piccola attività ereditata dal padre e ancora in funzione, né la potestà che esercita sui figli, energica e labile al tempo stesso. Stasera, come sempre, li ha fatti vestire tutti uguali, non i suoi figli. Il personale. Poi ci sono tre figli, un professionista di successo, un politico, un giornalista cinico e ricco per conto suo. Il primo è lateralmente invischiato in uno scandalo finanziario che costa molte settimane di carcere al suo cliente. Il secondo fa il deputato perché riconosce onestamente che non saprebbe fare null'altro nella vita e sarà a sua volta invischiato in uno scandalo sessuale. Il terzo, che alla ricchezza di famiglia ha aggiunto un'eredità pervenutagli da una vecchia zia e per questo detestato dei fratelli, li aiuterà poi a uscire da una serie di impicci. E sullo sfondo del libro Scambi Diamanti, un ritratto impietoso di una Roma attenta solo ai rapporti di potere. L'altro titolo è quello di Alessandro Piperno, si intitola Dove la storia finisce, Mondadori, 280 pagine, 20 euro. Come ho detto prima, l'ambiente è molto simile al libro precedente, anche qua forse abbiamo dei motivi di devianza più accentuati, e c'è un marito incapace di combinare nulla nella vita che è dovuto scappare in California per sfuggire ai debitori e che ritorna dopo molti anni, anni durante i quali la famiglia ha dovuto vedersela per conto suo. Il figlio è diventato un ristoratore di grandissimo successo, la figlia ha sposato giovanissima il rampollo di una famiglia molto agiata e la sorella del marito è la sua migliore amica verso la quale è legata da un'attrazione particolare. Il ritorno del padre fuggitivo rischia di rompere alcuni equilibri familiari fino alle conclusioni, qui decisamente drammatiche, che finiranno col rimettere a posto le cose e far riscoprire le radici dimenticate. Dal libro di Piperno sentiamo questa descrizione impietosa della Roma bene e soprattutto della sua involuzione. Era in corso il défilé dei soliti amici. Lino, popelin, fresco di lana, sandali, mocassini senza calze, ciondoli di corallo. Un red carpet a uso di coppie di mezza età provenienti da un ambiente che un tempo si sarebbe chiamato buona società, ma che ora non aveva più nome, né prestigio, né distinzione. Solo stock option, avvisi di garanzia, qualche brutto presentimento di casta. L'aristocrazia era svanita da secoli, la grande industria languiva impotente. Resisteva una burocrazia di gran commis, amministratori delegati, direttori di rete, tanto venerabili quanto inamovibili. Più o meno ogni tre anni si scambiavano i posti come certa gente di mondo fa con le case di vacanza. Tutto era convenzionale. La musica in sottofondo, le bluse dei camerieri ornate di alamari d'ottone, il finger food dalla consistenza flaccida, le forme pretenziose, il retrogusto di ostrica e ricci di mare. Un altro ambiente borghese troviamo nel titolo di un autore spagnolo, anzi catalano, Gonzalo Torné. Il libro si intitola Una relazione borghese, Mondadori, 310 pagine, 22 euro, è tradotto da Gloria Cecchini. Anche qui abbiamo un padre che se ne va, qui definitivamente, tragicamente, lasciando al figlio, che è lì narrante, qualche sostanza e soprattutto qualche saggio consiglio di abbigliamento. Joan Marc, il protagonista, insicuro, disorientato, è sposato da giovanissimo con un'americana del Montana, morbosamente attratta dai riti sociali europei e spagnoli in particolare. La sorella del protagonista lo considera affettuosamente poco più che un minus abens. La madre, dopo l'uscita da scena dal padre, che peraltro era già separato, vive in un mondo tutto suo. La coppia, con un ragazzo e i suoceri, si reca in uno stabilimento termale per cercare di rinsaldare un legame ormai più che sfilacciato, e di qui inizia la lunga confessione di Joan Marc, che rievoca il difficile rapporto con la famiglia di origine, le delusioni imprenditoriali, l'inaridirsi del legame con Hélène, la moglie, un legame che all'inizio era basato su appassionate reciproche prodezze sessuali che in qualche misura hanno caratterizzato la maturazione di un'intera generazione che scoprì la libertà sessuale, spiega il libro, con il boom delle seconde case, con quei genitori che non ci portavano con loro il fine settimana perché restassimo a casa a studiare. Ma la moglie, Hélène, diventa una mezza alcolizzata, non intende dedicarsi ad alcuna attività, e lo stato di progressiva decadenza si estenderà a un'intera generazione. E a questo punto il confettino. Una casa borghese messa tutta a soqquadro è quella raccontata da André Marois e illustrata da Gérard Dubois nel libro Facciamo Che, pubblicato da Orecchio Acerbo, tradotto da Paolo Cesari, 13,90 euro, che è un libro deliziosamente retro, almeno nelle immagini, ambientato e illustrato appunto in un appartamento borghese che viene completamente sfasciato dalla eterna, inarrestabile vivacità dei bambini, che qui forse avrebbero fatto meglio a leggere un libro. I politici sono come i pannolini, li devi cambiare spesso e per lo stesso motivo. Tom Dobbs era il re della satira giornalistica, fino al giorno in cui decise di smetterla di cercare risate. Dovrebbe candidarsi a presidente. Per cominciare a cercare voti. Domani annuncerò ufficialmente la mia candidatura a presidente. Reggetevi forte, sta per partire la campagna. L'indimenticabile Robin Williams ci ricorda che siamo alla vigilia delle elezioni americane. Quelle che avete sentito sono alcune battute tratte dal film di cui Williams era protagonista, di Barry Levinson, The Best Man, del 2006. È un film nel quale Williams appunto ha il ruolo di un intrattenitore televisivo che decide di candidarsi alla Casa Bianca. Queste notizie sono tratte dal libro di Luca Mencacci intitolato appunto The Best Man, le campagne elettorali viste da Hollywood. È pubblicato da Rubettino, 230 pagine, 14 euro. La politica americana, quella americana in particolare, si presta molto a una lettura cinematografica. Come dice infatti l'autore, i partiti, a maggior ragione nel contesto americano, i singoli candidati, cui spetta il privilegio del ruolo di protagonista nella competizione elettorale, nel loro continuo adeguarsi alle norme che la regolano e ai processi che la determinano, non si limitano solo a recitare a tema, ovvero a interpretare una preesistente opinione politica registrata nella società, piuttosto contribuiscono alla riscrittura di una piattaforma programmatica elaborata sulla base di tutta una serie di indicazioni ricevute dall'elettorato. Insomma, devono essere costantemente sulla scena. Uno dei grandi registi che più si dedicò a rappresentare la politica americana fu Frank Capra, che produsse addirittura una trilogia conclusa con State of the Union del 1948, che è dedicata proprio alla campagna elettorale presidenziale. E in questo libro troviamo il richiamo a questo che ho citato di Capra, ad altri film, compreso quello di Levinson. Il più recente di questi è Swing Vote di Ushua Stern del 2008, e troviamo nel libro la descrizione della trama e la lettura di questi film alla luce appunto dell'analisi politica, particolarmente adatta anche a leggere Star Wars, dice l'autore, e fenomeni molto attuali non solo negli Stati Uniti, come l'ostilità crescente verso la politica e le istituzioni rappresentative. E a proposito di personaggi insospettabili che a un certo punto si candidano per la presidenza degli Stati Uniti, parliamo di Trump con un libro di un giornalista americano che lavora in Italia, Andrew Spanaus, che ha scritto Perché vince Trump, la rivolta degli elettori e il futuro dell'America, è pubblicato da Mimesis, 10 euro, 102 pagine, e questo è un libro nel quale non si auspica né si dà per scontata la vittoria di Trump, ma si dice che Trump comunque ha già ottenuto un grandissimo risultato dando voce a un'America molto arrabbiata che non si ritrova più nelle elite tradizionali, sia democratiche che repubblicane. E quindi il significato delle elezioni comunque sarà un significato storico e avrà anche una conseguenza importante, scrive l'autore, per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa. E con questo ringrazio Luca Cremonesi redazione e Valeria Bernardi regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.